Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. I fatti ci hanno preso la mano e così non abbiamo ancora avuto il tempo di esaminare un po' più da vicino quella ridicola razza di uomini che erano i cortigiani pullulanti alla corte di Parma e sempre pronti a commentare con battute incredibili tutto quel che succedeva. Il signor Gonzo apparteneva a questa categoria di poveri diavoli. Era molto nobile, possedeva qualcosa di suo e oltre a tutto aveva trovato, grazie al marchese Crescenzi, uno splendido posto che gli rendeva 1500 franchi all'anno. A dir la verità, benché fosse molto abile quando si trattava di affari, Gonzo era totalmente privo di idee. Clelia stava calcolando che erano giusto 14 mesi che non vedeva Fabrizio. Che male c'è, pensava, se vado a passare un'ora in una chiesa, non per vedere Fabrizio, solo per sentire un predicatore famoso. Starò lontana dal pulpito, lo guarderò solo una volta entrando e un'altra alla fine della predica. Non mi interessa lui, è il predicatore che voglio sentire. Ma mentre faceva questi bei ragionamenti, provava anche un gran rimorso. Si era comportata così bene da 14 mesi a questa parte. Facciamo così, pensò, per cercare di mettersi il cuore in pace. Se la prima donna che entrerà qui stasera è stata a sentir predicare Monsignor Del Dongo, allora ci andrò anch'io. Se no, no. Presa questa decisione, Clelia mandò in visibilio Gonzo dicendogli: «Fatemi un piacere, vorrei sapere quando e dove il coadiutore terrà la prossima predica e può darsi che stasera, prima che andiate via, abbia da darvi una commissione». Appena Gonzo se ne fu andato diretto al corso, Clelia scese nel parco a prendere un po' d'aria. Da 6 mesi non ci metteva piede, ma non ci pensò nemmeno. Era tutta eccitata, piena di vita. Le era tornato persino un po' di colore sulle guance. La sera, in salotto, all'arrivo di ognuno di quei noiosi degli invitati, il cuore le batteva forte forte. Clelia non riusciva a star ferma, si alzava, camminava su e giù per il salotto, andava nella galleria dei quadri dove il marchese aveva voluto esporre solo opere che costassero come minimo 20.000 franchi. Ma tutti i quadri parlavano un linguaggio così chiaro quella sera che a furia di emozioni le affaticavano il cuore. Sentì che aprivano la porta del salotto, tornò indietro di corsa. Era arrivata la marchesa Raversi. Salutandola, Clelia si sentì mancare la voce. Dovette ripeterle 2 volte la domanda perché la Raversi non aveva capito. «Che ne pensate del predicatore alla moda?» «Pensavo che fosse solo un piccolo intrigante, degno nipote di sua zia, l'illustre contessa Mosca, ma l'ultima volta che ha predicato, proprio qui in faccia alla Visitazione, è stato così sublime che mi ha fatto passare tutta la mia antipatia. È il miglior predicatore che io abbia mai sentito». «Allora ci siete andata a sentirlo», disse Clelia, e tremava dalla gioia. «Ma come?» disse la Raversi ridendo. «Non ascoltate neanche quello che dico. Non perderei una sua predica per tutto l'oro del mondo. Pare che sia malato di petto e che tra un po' dovrà smettere di predicare». Quando la Raversi se ne fu andata, Clelia fece venire Gonzo nella galleria. «Ne parlano tutti così bene», gli disse, «che ho quasi deciso di andarlo a sentire, quel predicatore. Quando è la prossima predica?» «Lunedì 21, cioè fra 3 giorni, e sembra quasi che sappia che la signora Marchesa vuole andare a sentirlo, perché viene a predicare proprio alla Visitazione». Ci sarebbero stati altri particolari da precisare, ma Clelia sentiva che le mancava la voce. Si mise a andare su e giù per la galleria senza dir niente. Si sedette su un divano e fece segno a Gonzo di venire vicino. Poi, dopo un momento, gli diede una piccola borsa con dentro qualche zecchino. «Fatemi tenere 4 posti», gli disse. «E il povero Gonzo? Non gli sarà concesso di sgattaiolare dentro anche lui al seguito della signora Marchesa?» «Ah, sì, certo, 5 posti, allora. Non ci tengo affatto a star vicino al pulpito, ma mi piacerebbe poter vedere la signorina Marini. Dicono che è così bella». Fabrizio salì sul pulpito. Era così magro, pallido, devastato, che Clelia sentì gli occhi pieni di lacrime. Fabrizio incominciò a parlare, poi si interruppe di colpo, come se gli mancasse la voce. Tentò più volte di riprendere la predica, ma non ci riuscì, e allora si voltò e prese un foglio. «Fratelli miei», disse, «un'anima infelice, degna della vostra compassione, vi chiede per mezzo mio di pregare perché sia posta fine ai suoi tormenti, che solo con la morte si placeranno». Poi lentamente incominciò a leggere, ma c'era un tono così drammatico nella sua voce che prima che fosse arrivato a metà della preghiera piangevano tutti, perfino Gonzo, e piangendo Clelia pensava: almeno non mi noteranno. Un paio di volte leggendo, Fabrizio riuscì a trovare qualcosa da dire su quel povero infelice per il quale invocava le preghiere dei fedeli. Ma poi un'infinità di pensieri gli si affollarono alla mente. Sembrava che si rivolgesse a tutti, ma era solo a Clelia che parlava. Finì la predica un po' prima del solito. Per quanti sforzi facesse, le lacrime gli impedivano di parlare. Quanto a Clelia, dopo le primissime righe della preghiera letta da Fabrizio, lei era già arrivata a considerare una colpa mostruosa il fatto di essere stata 14 mesi senza vederlo. Tornata a casa, si mise a letto per poter pensare a Fabrizio senza che ci fosse niente a distrarla, e il giorno dopo, sul presto, Fabrizio ricevette questo biglietto. «Conto sul vostro onore. Cercate 4 guardie del corpo, che sia gente fidata e sicura. E domani, quando alla steccata suonerà mezzanotte, venite alla porticina al 19 di via San Paolo. State attento, potrebbero aggredirvi. Non venite solo». Quando riconobbe quella scrittura divina, Fabrizio si inginocchiò piangendo. «Finalmente!» gridò. 14 mesi e 8 giorni ho aspettato, e adesso basta con le prediche». Sarebbe troppo lungo descrivere tutti i pensieri pazzeschi che vennero quel giorno a Fabrizio e a Clelia. La porticina di cui si parlava nel biglietto era quella della Serra degli Aranci, nel parco di Palazzo Crescenzi. Fabrizio trovò il modo di andare a vederla perlomeno una decina di volte. Un po' prima di mezzanotte, solo e armato, ci passò davanti in fretta e sentì una voce, quella voce che diceva adagio: «Vieni dentro, amico del mio cuore». Fabrizio entrò cautamente. Era nella serra. Di fronte a lui c'era una finestra, chiusa da una grossa inferriata. Era molto buio. Sentì un fruscio, allungò una mano a toccare le sbarre, e un'altra mano prese la sua e la tirò dentro, e se la sentì baciare. Poi quella voce amata gli disse: «Sono io. Sono venuta qui per dirti che ti amo, per chiederti se sei pronta a ubbidirmi». È facile immaginare quel che rispose Fabrizio. Era turbato, felice, e dopo le prime parole d'amore, Clelia gli disse: «Lo sai, ho fatto voto alla Madonna di non vederti mai più, per questo ho voluto incontrarti così al buio. Ricordatelo, se mi costringerai a guardarti in piena luce, tra noi sarà tutto finito. Ma prima di tutto voglio che tu non predichi più davanti a quella Annetta Marini, e spero che non penserai che sia stata io a far portare in chiesa quella poltrona. Non predicherò più davanti a nessuno, angelo mio. Lo facevo soltanto perché speravo che un giorno tu saresti venuta, che avrei potuto vederti». E a questo punto chiediamo scusa se passiamo sotto silenzio 3 anni interi. Al tempo in cui riprendiamo la nostra storia, Mosca era già tornato da un pezzo a Parma come primo ministro, più potente che mai. Dopo quei 3 anni di felicità divina, Fabrizio non fu capace di resistere a un impulso del cuore e tutto cambiò. Clelia aveva un bellissimo bambino di 2 anni, Sandrino, che era la sua gioia. Stava sempre con lei o in braccio a suo marito. Ma Fabrizio non lo vedeva quasi mai, e non sopportando l'idea che il bambino potesse abituarsi a amare un altro padre, incominciò a pensare di rapirlo prima che i suoi ricordi prendessero consistenza. Ogni giorno, durante le lunghe ore che passava lontana dall'amante, Clelia si consolava stando vicina al suo bambino. Anche se la cosa potrà sembrare incredibile a nord delle Alpi, Clelia, malgrado tutto, era infatti rimasta fedele al suo voto. Come forse vi ricorderete, aveva giurato alla Madonna di non rivedere mai più Fabrizio. Queste erano state le sue precise parole, e quindi si incontrava con lui soltanto di notte e a lume spento. L'arcivescovo Landriani era morto da molto tempo e la devozione, la purezza di costumi, l'eloquenza di Fabrizio l'avevano ormai fatto dimenticare da tutti. Anche Ascanio del Dongo era morto e Fabrizio aveva ereditato il patrimonio della famiglia e ogni anno distribuiva ai vicari e ai parroci della diocesi l'intera rendita dei beni dell'arcivescovato, che ammontava a più di 100.000 franchi. Sarebbe stato difficile immaginare una vita più onorata, più degna e più utile al prossimo di quella che Fabrizio si era fatta. Ma lui voleva troppo bene al suo bambino e finì per rovinare tutto. Lo rispetto, il tuo voto, anche se per me è una sofferenza non poterti mai vedere di giorno, disse una volta a Clelia, ma mi sento così solo. L'unica distrazione è il lavoro, ma non è che abbia poi molto da fare. È duro, sai, è così malinconico passare in questo modo tante ore, tutti i giorni. E da 6 mesi continuo a pensare alla stessa cosa e mi tormento e cerco di resistere, ma è inutile. Mio figlio non mi vorrà bene, non mi sente neanche nominare. E allora? Mi stai spaventando, disse Clelia. Dove vuoi arrivare? A riavere mio figlio. Voglio che venga a stare con me, voglio poterlo vedere tutti i giorni. Voglio che si abitui a volermi bene e voglio potergli voler bene. Bisognava far finta che il bambino fosse ammalato, diceva Fabrizio, che stesse sempre più male. Poi avrebbero aspettato che il marchese Crescenzi partisse per qualche giorno e quando sarebbe tornato gli avrebbero detto che il bambino era morto. A Clelia quel progetto ripugnava, le ispirava un vero terrore. Arrivarono a una rottura lei e Fabrizio. Ma non durò molto, non poteva durare. Molte lacrime furono versate e Clelia si ammalò. Ma voleva troppo bene a Fabrizio per poter continuare a rifiutargli quel terribile sacrificio che lui le chiedeva. Finse che Sandrino stesse male. Il marchese fece subito venire i medici più noti e a questo punto Clelia si trovò di fronte a un inconveniente terribile che non aveva previsto. Bisognava evitare che il bambino prendesse le medicine prescritte e non era tanto semplice. Costretto a stare a letto senza motivo, il bambino finì per ammalarsi davvero. Ma come si poteva fare per dire ai dottori la vera causa di questa malattia? Divisa tra due affetti contrari e profondi, Clelia fu sul punto di perdere la ragione. Avrebbe dovuto fare come se Sandrino fosse guarito, ma voleva dire rendere inutile tutta quella lunga finzione tanto penosa. Quanto a Fabrizio, lui non poteva né perdonarsi la violenza con cui si stava imponendo al cuore di Clelia, né rinunciare a quel che aveva in mente. E si rese conto che con il suo assurdo progetto rischiava di far morire Clelia e il bambino. Andò dal suo più intimo amico, da Mosca, a chiedergli di aiutarlo. E Mosca, lui, il vecchio uomo politico, rimase molto commosso da quella storia d'amore di cui non sapeva quasi niente. «Farò in modo che il marchese stia lontano per almeno 5 o 6 giorni. Ditemi voi quando devo muovermi». Di lì a qualche tempo Fabrizio tornò da Mosca e gli disse che tutto era pronto. Due giorni dopo il marchese, mentre stava tornando a cavallo da uno dei suoi possedimenti nei dintorni di Mantova, fu rapito da un gruppo di briganti che avevano tutta l'aria di essere al soldo di qualcuno che voleva vendicarsi. Erano stati molto abili nell'organizzare il rapimento, ma il risultato fu terribile. Sandrino, portato di nascosto in una bella casa, dove Clelia andava a trovarlo quasi tutti i giorni, morì dopo qualche mese. Clelia si immaginò che il cielo avesse voluto punirla per aver infranto il suo voto. Durante la malattia del suo bambino l'aveva visto tante volte Fabrizio alla luce delle candele, e due volte l'aveva visto perfino di giorno, e si era abbandonata a tali slanci d'amore. Morì qualche mese dopo il suo bambino, ma ebbe la consolazione di morire tra le braccia del suo amante. Fabrizio era troppo innamorato e aveva troppa fede per pensare di uccidersi. Sperava di ritrovare Clelia in un mondo migliore, ma era troppo lucido per non sentire di aver molte cose cui riparare. Pochi giorni dopo la morte di Clelia, firmò una serie di atti notarili, assegnò una pensione di 1.000 franchi a ciascuno dei suoi domestici e se ne riservò una dello stesso valore. Fece donazione alla contessa Mosca di parecchie proprietà per un reddito complessivo di circa 100.000 lire. Uguale somma assegnò alla marchesa del Dongo, sua madre, e ciò che restava della fortuna paterna lo passò a una delle sorelle, quella malmaritata. L'indomani, dopo essersi dimesso dalla carica di arcivescovo e da tutti i posti che aveva ottenuto per la benevolenza di Ernesto V e per l'amicizia del primo ministro, si ritirò nella Certosa di Parma, tra i boschi lungo il Po, a 2 leghe da Sacca. A suo tempo Gina aveva approvato incondizionatamente la decisione di suo marito di tornare al ministero, ma non aveva voluto a nessun costo rimetter piede negli stati di Ernesto V. Lei teneva la sua corte a Vignano, a 1/4 di lega da Casalmaggiore, sulla riva sinistra del Po, in territorio austriaco. Nel magnifico palazzo che Mosca le aveva fatto costruire, riceveva il giovedì tutta l'alta società di Parma e ogni giorno i suoi molti amici. E Fabrizio andava a trovarla tutti i giorni, immancabilmente. Sembrava, insomma, che Gina avesse tutto dalla vita, ma sopravvisse solo poco tempo al suo adorato Fabrizio, che morì dopo 1 anno passato alla Certosa. Le prigioni di Parma erano vuote, e Mosca era ricchissimo, e Ernesto V adorato dai suoi sudditi, che paragonavano il suo governo a quello dei granduchi di Toscana. Sono Giulio Ferroni, insegno letteratura italiana all'Università di Roma La Sapienza, ma mi occupo in genere di letteratura e di narrativa, ne amo moltissimo quella dell'Ottocento. Il titolo dell'opera, La Certosa di Parma, di cui non si trovava traccia nel corso del romanzo, si è rivelato alla fine come il luogo della fine, dove si chiude Fabrizio dopo la morte di Sandrino e di Clelia. È il luogo della fine del romanzo, il punto d'arrivo di una narrazione inesauribile che non può continuare all'infinito. Dopo che è stato fatto finalmente il nome della Certosa, si arriva poi rapidamente, come avete sentito, alla morte dello stesso Fabrizio e di Gina. Solo il politico Mosca resta in vita. Ma il senso della fine non sembra nemmeno lasciare una vera eco di morte. Come disse Tomasi di Lampedusa, nella Chartreuse nessuno muore sul serio, ma si allontana per impercettibili gradazioni verso l'immateriale ricordo. Se la Certosa di Parma, insomma, non esiste, o meglio, esisteva un tempo, ma non esisteva più nemmeno ai tempi di Stendhal, se non esiste ne resta il nome sospeso in una eterna vita di memoria, come restano i personaggi con le loro passioni, intrighi, i loro incredibili eccessi. Personaggi vissuti contemporaneamente nella storia e fuori del tempo, pieni di brame e di slanci fisici e mentali, ma nello stesso tempo librati in una evanescente leggerezza. Campione dell'egotismo Stendhal, no? Una concentrazione sull'io, cioè come dispersione e dispendio di sé, campione dell'egotismo Stendhal ha offerto una parte di se stesso a ciascuno di questi personaggi. Ha bruciato di desiderio per la rigogliosa e pungente Sanseverina e per la fragile ostinata Clelia, ma si è proiettato nella loro mente e nei loro gesti nello stesso tempo. Poi è stato Fabrizio a Waterloo e nella Torre Farnese, insieme al conte Mosca ha manovrato l'immaginaria corte di Parma. Sono maschere, insomma, dello stesso Stendhal, ribelle, detto Stendhal. A queste maschere ha affidato la sua volontà di vita, la ricerca di qualcosa che catturasse davvero il mondo, che ne fermasse la fragile bellezza. In queste maschere egli si è nascosto, ma se ne è anche staccato. Ha guardato ironicamente le loro passioni, ha additato anche continuamente i loro errori, le loro illusioni. Nel suo narrare, l'identificazione con i personaggi e la negazione di questa stessa identificazione procedono di pari passo, sono inestricabilmente intrecciate. Lo stesso Fabrizio, del resto, non è un vero e proprio eroe. La sua esperienza e il suo destino, fino dalla definizione della sua carriera da parte di Mosca e di Gina, esperienza e destino sono come gestiti da altri, gli sfuggono sempre, come all'inizio gli sfugge la stessa battaglia di Waterloo e in essa gli sfugge la stessa visione dell'imperatore che pure tanto amava, no? E come alla fine gli sfuggono l'amata Clelia e il figlio Sandrino. Qualcuno può addirittura arrivare a vedere in lui una delle prime figure di Inetti che popoleranno la letteratura del secondo Ottocento, però da quelle figure lo distingue la vitalità che comunque lo trascina, lo splendore delle illusioni e degli errori che lo catturano, l'intensità degli amori con cui afferra il senso della vita che fugge. Qui ci troviamo prima dell'inconscio, prima della psicologia, nel mondo dell'invenzione felice, in una storia che è carica di realtà e nello stesso tempo è sospesa come prima della storia, dove il male, la violenza, il dolore, la distruzione, che sono pure toccati fino in fondo, fino all'eccesso, nello stesso tempo fuggono via come in una musica tutta dispiegata dal canto. Un romanzo, insomma, che sembra evocare lo spazio fascinoso dell'opera italiana che è quasi, dopo aver letto La Chartreuse, verrebbe voglia di dire, come per pochi altri grandi capolavori, che di fronte a queste opere è possibile credere che la felicità esista e è possibile dire un po' laicamente, un po' ironicamente, ma anche in modo convinto che si tratta di prove probabili dell'esistenza di Dio. Thank you.